Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, stasera comincio con una domanda politico-esistenziale. Perché la sinistra ha paura di quest'uomo? Se tu quest'anno mi prendi tutti i 10, ti regalo una vacanza da sogno. Dove lo porti che non c'è una lira? Mi fa parlare con la maestra? Abbassiamoli almeno la condotta. Senta, mi vuole ascoltare un momento? La ginnastica. Naturalmente l'avrete riconosciuto, era Checco Zalone, che secondo l'autore del libro che vi presento adesso è una delle ragioni che possono spiegare perché la sinistra non vinceva, almeno fino alle elezioni europee di poche settimane fa. Il libro è quello di Claudio Cerasa, che è un giornalista caporedattore del Foglio, e si intitola Le catene della sinistra, non solo Renzi, lobby, interessi, azionisti occulti di un potere immobile, pubblicato da Rizzoli, 306 pagine, 16 euro, e appunto è stato scritto e pubblicato prima dei risultati elettorali. Lo dico perché in questo libro Cerasa spiega quali sono a suo parere le ragioni che non hanno mai consentito, almeno negli ultimi decenni, ai partiti della sinistra di affermarsi alle elezioni e di diventare il partito maggioritario. Una delle ragioni che spiegano questo storico insuccesso, questa storica paralisi del Partito Democratico, è proprio legata alla paura per Checco Zalone, che avrete riconosciuto nel brano che avete ascoltato poco fa, ossia la paura per tutto ciò che è popolare, per tutto ciò che sente, che piace alla gente comune. E proprio questa paura, secondo Cerasa, spiega le condizioni di minorità politica in cui si è trovata per molto tempo il Partito Democratico e la sinistra italiana. Per Cerasa, in realtà, le ragioni di questo insuccesso sono state cinque, e sono appunto le catene che hanno trattenuto la sinistra dalla possibilità di spiccare il volo, cioè di sfondare anche in un elettorato diverso da quello proprio o tradizionale, rappresentato dalle regioni rosse, dal pubblico impiego, dai pensionati, dagli intellettuali. E le cinque catene sono l'appiattimento nei confronti della magistratura, l'ambientalismo alla matriciana, come lo chiama l'autore, la resistenza a qualsiasi cambiamento nel mercato del lavoro, la collusione con quelli che una volta si chiamavano poteri forti e appunto la paura di Checco Zalone, l'aristocraticismo intellettualistico che detesta tutto ciò che sa orrore di televisione e di cultura popolare. E allora facciamoci spiegare dall'autore qual è il peso di queste catene. Buonasera a Claudio Cerasa. Buonasera a voi. Claudio Cerasa, di queste cinque catene che tengono avvinta la sinistra, secondo lei qual è quella più dura da sciogliere, quella che rischia di portare a fondo la sinistra italiana? Ma secondo me sono principalmente due, sono quelle che riguardano da un lato il mondo della giustizia e dall'altra il mondo dei sindacati, perché finora Renzi è stato molto bravo a enunciare in maniera discorsiva tutte le catene che vanno spezzate ed è stato anche coraggioso. Il problema è che siamo ancora alla fase Nanni Moretti, in cui un leader sale sul palco, annuncia delle cose da fare, molto belle, molto interessanti, però poi deve farle. Adesso, con questo consenso mostruoso che ha, bestiale, se non le spezza lui le catene, chi altro può spezzarle? E la giustizia, secondo me, è il primo terreno su cui bisogna muoversi. Ecco, fermiamoci su questo aspetto, proprio la giustizia, perché in questi giorni tutta l'ondata di scandali che è capitata naturalmente ha riportato acqua alle ragioni dei giustizialisti, diciamo, coloro che pendono dalla parte dei magistrati. Questo può incidere, può influire sul processo di cambiamento che dovrebbe aver luogo nella sinistra? Ma insomma, secondo me, ai temi legati alla giustizia c'è sempre un rischio che riguarda questo Partito Democratico, che è più maturo rispetto a quelli visti negli ultimi anni, che è diventare Grillo, diventare grandi senza diventare come Grillo. Questo è un po' il problema. E per quanto riguarda il tema sulla giustizia, ho l'impressione che il Partito Democratico tenda un po' a inserire il Movimento 5 Stelle per non farsi rubare voti. È vero che non cavalca le inchieste delle procure, anche perché spesso sono esponenti della sinistra che si ritrovano vittime delle indagini e degli arresti, però sarebbe bello che Renzi avesse il coraggio di rinunciare a uno 0,5% di consensi, però di non perdere la faccia rispetto a questioni delicate come per esempio la questione preventiva. Io ricordo che lo scorso anno la Leopolda, Renzi ha fatto un grande pistolotto molto bello su Silvio Buono, cioè Silvio Scaglia, ha fatto un ragionamento importante sugli abusi della carcerazione preventiva, oggi io mi stupisco molto che non faccia dei ragionamenti simili per quanto riguarda la carcerazione preventiva e i casi che abbiamo visto in questi giorni, legati sia all'Expo sia al Mose. Sarebbe, come dire, doveroso fare questo, farlo sia a parole sia poi nei fatti, e in qualche modo nella riforma della giustizia che andrà fatta entro la fine di giugno, come ha promesso Renzi. Secondo lei, a proposito del rapporto con i grillini, l'atavico terrore di non avere nessun nemico a sinistra, quanto nuoce in questa fase al Partito Democratico e proprio dal punto di vista del rapporto con il Movimento 5 Stelle? Secondo me la politica del avere un nemico a sinistra, che mi sembra che sia quella che porta avanti Renzi in questa fase, è una politica importante che può dare dei successi, perché la vocazione minoritaria della sinistra in tutti questi anni si è manifestata andando a rincorrere sempre delle parti estreme, delle parti anche sinistre della sinistra, che rincorrevano le manette, che rincorrevano il mondo folcloristico degli antenati di Tsipras, e andando a rincorrere quella roba lì poi diventavano minoritari. Oggi il PD invece è andato molto bene, ricordiamolo, perché è andato da solo, è stato costretto dalle elezioni europee, però molte persone hanno votato PD perché il PD non ha manettato con nessuno. Questo riguarda l'alleanza, però l'ammanettamento, come spiego un po' nel mio libro, riguarda anche un sacco di categorie: imprenditori, sindacalisti, magistrati, giudici. PD deve smanettarsi e scatenarsi in tutti i sensi. Una parte importante del suo libro è dedicato al rapporto del PD con la società civile, una società civile che proprio gli scandali di queste ultime settimane dimostrano non essere sempre garanzia di comportamenti edificanti. Ecco, come mai la sinistra ha questo fascino, sente questo fascino così forte, insegue in questa maniera la società civile? Perché la sinistra è sempre stata attratta da alcune stampelle, ha sempre avuto il timore di non essere in grado di rappresentare per intero la società, e si è sempre aggrappata come una scialuppa ad alcune realtà, ad alcuni mondi, alcune galassie che potessero aiutarla a rappresentare qualcosa, candidando dei magistrati e giudici per rappresentare l'Italia della purezza, candidando alle elezioni dei sindacalisti e gli imprenditori per rappresentare l'Italia degli imprenditori e l'Italia dei sindacati, candidando poi alle elezioni o mettendo in alcuni posti chiave del paese alcuni esponenti della società civile. Per esempio l'ha fatto Bersani lo scorso anno, mettendo Grasso al Senato, Bolzellini alla Camera, Colombo e Tobagi alla RAI. Insomma, è un modo preciso per dire, per cercare di connettersi con un mondo esterno ai palazzi, senza capire che in realtà delegare il compito di rappresentare un pezzo di società a qualcun altro esterno alla politica è un modo clamoroso per delegittimare la politica, specie se poi le persone che si mettono a rappresentare la propria parte politica sono le stesse che per anni hanno insultato il mondo della politica. È un paradosso evidente e clamoroso, e credo che questo ragionamento che sto facendo potrebbe essere importante per Renzi quando ci sarà la partita più importante dei prossimi mesi e forse anche dei prossimi anni, cioè quando il Presidente della Repubblica sceglierà di fare un passo di lato, e a quel punto Renzi dovrà fare una scelta, se insistere su un politico oppure se pescare nella società civile. Io penso che la seconda strada sia assolutamente consigliate, Renzi non la prenderà. Questa logica ha fatto sì che la sinistra diventasse in qualche misura prigioniera di questa logica concertativa, che è una delle ragioni, lo spiega anche lei nel suo libro, della crisi attuale. Assolutamente, la concertazione dal mio punto di vista, penso che qualsiasi elettore di centrosinistra moderno potrebbe condividere questa analisi, ha rappresentato una grande catena della sinistra italiana, perché ha portato i partiti a identificare più nei sindacati che nei vari singoli imprenditori o mondo dei lavoratori le realtà da rappresentare. Cioè, l'errore qual è stato? È stato quello di pensare che fosse sufficiente potersi aggrappare a qualche grande sigla per rappresentare alcuni mondi, mentre invece la sinistra ha sempre avuto, specie nel rapporto con gli imprenditori, paura della pancia del paese. Un filo conduttore che lega sia il rapporto con le piccole e medie imprese, perché la sinistra ha sempre visto mediamente il piccolo imprenditore come un possibile evasore, non come un possibile, una possibile risorsa del paese, ed è un problema di carattere culturale che si lega anche alla figura di Checco Zalone, che è la stessa identità, la paura, il terrore della pancia del paese, perché tutto ciò che è popolare viene visto come se fosse troppo populista e troppo di destra quasi. Secondo lei riusciranno a vincere la sindrome di Checco Zalone la sinistra italiana? Secondo me sì, anche perché oggi c'è un presidente del Consiglio, segretario del PD, che va una serata da Maria De Filippi con la giacchetta di Fonzi, si va a fare foto su chi, sui giornali di Alfonso Signorini, vestito come con il chiodo, portando al governo dei ragazzi della generazione Bim Bum Bam, cresciuti con Paolo Bonolis, con Juan, con varie altri grandi fenomeni culturali, non della RAI, che anche questo è significativo, perché Renzi e il suo mondo è un mondo che culturalmente ostile alla RAI, che è cresciuto più con la televisione commerciale e con la televisione, diciamo, digitale. Quindi quel processo lì, secondo me, potrebbe andare verso, potrebbe portare la sinistra ad accettare più Checco Zalone. Poi Checco Zalone verrà accettato anche nel mondo cinematografico e prenderà magari un giorno un qualche premio, sarebbe anche per lui, però questo dipende molto dalla cultura degli elettori, della classe dirigente, quello è un problema molto complicato. Grazie a Claudio Cerasa, autore delle Catene della Sinistra. Buona serata. Buona serata a voi, grazie. E adesso un libro che è quasi un confettino, perché si tratta di un libro per ragazzi scritto da uno degli studiosi, degli esperti che sono stati sentiti per la sua inchiesta da Claudio Cerasa, cioè Pietro Ichino, il noto esperto di diritto del lavoro, che è stato anche parlamentare del PD, attualmente è in Parlamento, è stato eletto con Lista Civica e ha sempre avuto posizioni molto avanzate nel campo del lavoro, in vista di rompere le rigidità del mercato del lavoro, appunto per favorire l'occupazione. Quindi di Pietro Ichino vi segnalo Il lavoro spiegato ai ragazzi e anche ad alcuni adulti, pubblicato da Mondadori, 160 pagine, 13 euro, illustrato da Federico Mariani. E nel libro, con linguaggio piano, Ichino spiega i segreti del lavoro alla luce delle trasformazioni della società attuale, spiega perché è difficile trovare lavoro, quale sia la differenza tra lavoro stabile e precario, tra lavoro dipendente e autonomo, illustra quale sia il ruolo dei sindacati e le tutele a favore dei lavoratori. Insomma, un'ottima guida per affacciarsi responsabilmente sul mercato del lavoro. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di una mostra che è in corso a Torino, dedicata ai pre-raffaelliti, un movimento artistico che fu fondato nel 1848 a Londra, una città che allora era ormai il motore della modernità e dello sviluppo tecnologico. Fu un movimento artistico, quello dei pre-raffaelliti, rivoluzionario e complesso, perché si accompagnava a una cultura riformista anche in campo economico, religioso e politico. Ne nacque un filone particolare dell'arte britannica che le avrebbe assicurato una dimensione e un ruolo specifico, fino ai movimenti di fine secolo, di fine Ottocento, per esempio quello di Arts and Craft, che cercava di riconciliare l'arte con la produzione industriale. E a questo movimento dei pre-raffaelliti, dicevo, è dedicata una mostra in corso a Torino fino al 13 luglio a Palazzo Chiablese, curata da Alison Smith in collaborazione con Luca Beatrice. La mostra è organizzata da 24 Ore Cultura, che è una società di proprietà del gruppo che edita questa radio. E sentiamo sull'importanza della mostra Marco Carminati. Ciao Marco. Ciao Salvatore. Sì, in effetti l'occasione per il pubblico italiano è particolarmente ghiotta, perché da noi di mostre sui pre-raffaelliti non se ne vedono molte e soprattutto non si vedono mostre di questo livello, cioè con 70 capolavori che provengono dalla Tate Britain, cioè dal tempio di questa grande scuola che si trova a Londra. La mostra, tra l'altro, è organizzata proprio dal curatore di questa parte della sezione del museo della pittura inglese proprio dell'Ottocento. Perché è interessante? Perché la mostra ci viene messa in modo da poter comprendere quali sono i temi dominanti. Questi artisti si sono concentrati su alcuni argomenti, uno dei quali è la letteratura, ovviamente, ispirandosi in modo molto molto intenso a Dante Alighieri o a Shakespeare. Perché? Perché la loro poetica era quella di abbandonare una volta per tutte l'armamentario classico e mitologico. Poi si sono concentrati molto sulla storia. Noi abbiamo saghe medievali che sono tradotte in dipinti, E ancora li colpì molto i soggetti religiosi, la religiosità. E tra l'altro andarono a scavare nella mitologia cattolica. Nessuno di questi esponenti della cosiddetta confraternita dei preraffaeliti era cattolico, ma andarono a ricercare miti e soprattutto soggetti abbastanza oscuri, e furono anche tacciati di essere una sorta di setta anche per questo motivo. Entrarono nelle questioni sociali, una curiosa avversione alla rivoluzione industriale si esprime in questi dipinti, perché consideravano questa rivoluzione una sorta di schiavitù moderna, quindi vagheggiavano un passato senza le fabbriche e senza i fumi, che invece era una realtà che si stava espandendo moltissimo, soprattutto nella Londra e nell'Inghilterra di quel tempo. Altra grande tematica che la mostra esprime è quella dei paesaggi, cioè una rivisitazione di Turner e una appunto attualizzazione di questo grandissimo artista. Le sezioni finali sono dedicate al tema della bellezza, che loro coltivarono proprio come un mestiere, andando alla ricerca di questi dipinti con i dettagli e la qualità naturalmente stilistica della pittura, la ricerca del bello e della bellezza, e alla fine naturalmente sconfinarono in una pittura piena di rimandi, quindi una pittura simbolica, e infatti la loro scuola è rientrata a pieno titolo nella cultura del simbolismo. Ai preraffaeliti sono dedicate diverse pagine del libro di uno dei maggiori studiosi della cultura inglese, Mario Prats. Il libro si intitola Il patto col serpente, pubblicato da Adelphi, 578 pagine, 28 euro, ed è una raccolta di saggi del grande studioso, che morì nel 1982, nel quali si studiano alcuni aspetti che hanno poi spiegato, a partire dal romanticismo, gli sviluppi dell'arte contemporanea. Dei preraffaelliti, Prats dice che quel movimento pittorico letterario segna la svolta tra il clima romantico e il decadente, e in particolare in questa raccolta di saggi parla proprio di un quadro che è esposto a Torino, il quadro di William Hunt, Risveglio di coscienza, nel quale, secondo l'autore, cogliamo gli elementi fondamentali di questo tipo di pittura di genere. Si differenzia dalla pittura accademica vittoriana per l'intensità dell'emozione che il quadro vuole comunicare, per l'aderenza fotografica alla realtà. E poi troviamo in questo libro altri saggi su figure fondamentali della cultura inglese dell'8-900, per esempio Oscar Wilde, fino ai grandi protagonisti della cultura dello scorso secolo, D'Annunzio, Proust e lo stile floreale. Oltre che un grande studioso, Mario Prats fu un grandissimo collezionista. La sua casa di Roma a Palazzo Primoli infatti è diventata un museo, e anche di Prats collezionista parla il libro di un grande critico e storico dell'arte, Alvar González Palacios, Persona e maschera, collezionisti, antiquari, storici dell'arte, pubblicato da Archinto, 266 pagine, 20 euro. Troviamo qui una serie di ritratti, una scelta personale di esponenti intellettuali legati all'arte. Si parla anche, per esempio, di Vittorio Cini, la cui casa veneziana è stata recentemente aperta al pubblico dalla fondazione che porta il suo nome e resterà aperta fino al 2 novembre. Si trova chi voglia visitarla a Venezia, Dorso Duro, a Campo San Bio. Poi troviamo Luigi Magnani, un altro grande collezionista, la cui casa pure è diventata un museo. Si trova in Emilia, a Mammiano di Traversetolo, in provincia di Parma, dove fino al 29 giugno è ospitata una mostra dedicata a Massimo Campigli, curata da Stefano Roffi con il catalogo di Silvana. Insomma, nel libro di González Palacios abbiamo una galleria, come le chiama lui, di silhouette, acqueforti, istantanee e forse caricature che hanno fatto la cultura italiana. Allo stesso tema del collezionismo è dedicato il volume curato da Francesco Poli, Collezionisti d'arte tra professione e passione, è pubblicato da 24 Ore Cultura, ho già detto che cos'è questa società, 120 pagine, 20 euro. Qui troviamo le storie di 7 grandi collezionisti contemporanei: Paul Alexandre, che fu il mecenate di Modigliani, poi Emilio Iesi, un grande collezionista mercante di caffè milanese, la coppia Magda e Riccardo Jucker, imprenditori milanesi, Augusto e Francesca Giovanardi, lui era un medico romagnolo, Giorgio Franchetti, un imprenditore romano, Giuseppe Panza di Biumo, uno dei più grandi collezionisti al mondo di arte contemporanea, e infine Paolo Consolandi, un professionista, un notaio di Milano che costruì una grande collezione di arte contemporanea. E anche troviamo appunto la storia di queste collezioni, illustrate con molte immagini, E viene ricordato che molte di queste collezioni sono a loro volta diventate pubbliche. La collezione Jesi si può visitare alla Pinacoteca di Brera, la collezione Jucker al Museo del Novecento di Milano, una parte della collezione Giovanardi è stata depositata al MART di Rovereto e le raccolte Panza di Biuma possono essere ammirate in varie sedi, da Los Angeles al Guggenheim di New York fino a Villa Panza a Biuma Superiore in provincia di Varese, nella villa che oggi è gestita dal FAI. Parliamo infine di un artista contemporaneo, cioè Tullio Pericoli, che pubblica con Adelphi un libro che nasce da una conversazione con Domenico Rosa, che è collaboratore e disegnatore del Sole 24 Ore. Il libro si intitola Pensieri della mano, 128 pagine, 13 euro. Questa è una conversazione indispensabile per gli appassionati di Pericoli, che qui però non si limita a raccontare, stimolato da Rosa, della propria vita, della propria carriera, del proprio modo di guardare all'arte, ma fa molte osservazioni sul mondo dell'arte e della pittura, e anche su molti cliché con i quali giudichiamo questo mondo, come confermano le righe che adesso vi propongo. A me piace sapere, indagare su quello che faccio. È una cosa che mi succede naturalmente. Invecchiando sempre più, ho voglia di capire io per primo ciò che sta sotto, sopra e dentro il mio lavoro. Ma mi piace anche un po' smitizzare e alleggerire le incrostazioni di cattivo romanticismo sulla figura dell'artista. Ci sono state alcune vite drammatiche, in cui arte e biografia si sono fuse l'una nell'altra. Queste fusioni al pubblico piacciono e gli artisti ci hanno un po' giocato e continuano a farlo. Al pubblico piacciono i miti. Prendiamo il caso di Van Gogh, ancora lui. L'immagine più frequente, certo non per colpa sua, e più amata, è quella di un grande artista istintivo, vittima di disturbi psichici. Non si parla quasi mai del fatto che conoscesse e scrivesse correttamente in tre lingue, inglese, francese e olandese, che seguisse e commentasse i letterati del suo tempo, che leggesse testi di filosofia e, nelle lettere a suo fratello, intervenisse criticamente sui pittori dei suoi anni e su quelli del passato. Tanta storia dell'arte si potrebbe riscrivere se si abbandonassero molti falsi miti. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo parlato di collezionisti e quindi vi segnalo di Kerry Fagan, che è uno scrittore canadese, La strana collezione di Mr. Carp, illustrato da Mauro Ferrero e pubblicato da Bianco e Nero, 94 pagine, 11 euro. Il signor Carp entra come pigionante nella famiglia di Randolph, un ragazzo di 11 anni che colleziona tappi di bottiglie, penne e parole. Infatti segna su un quadernetto le parole più strane che sente. E porta con sé l'ospite, il nuovo ospite della famiglia, una misteriosa e sorprendente collezione. Non si tratta di una collezione d'arte, ma di qualcosa di ugualmente appassionante, capace di riempire la vita e di inseguire reperti preziosi in un duello implacabile con il grande avversario nel campo del collezionismo. E naturalmente la strana collezione del signor Carp cementerà un'amicizia e soprattutto spiegherà al ragazzo la forza delle passioni nel definire la propria vita. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro chiocciola Radio24.it e il sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima. Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Gli Indispensabili, 20 saggi universali per arricchire il tuo pensiero. Tutti i martedì in edicola con Il Sole 24 Ore.